Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che sono malato di questa canzone? Sì, cioè sono anch'io. Totalmente malato. Cioè, la ripeto. A Madrid non ho visto. Andavo ai musei a vedere Goya. Sono andato a vedere Dalì e avevo lì. Avete visti lì? Tutta la gente che mi guardava, che cantava davanti a Dalì, a questo quadro meraviglioso di Salvatore Dalì, no? Sai questo quadro bellissimo che c'è al museo Reina Sofia? Il grande masturbatore. Dovresti conoscerlo questo quadro meraviglioso di Salvatore Dalì. Allora... E io ero con le cuffiette e c'erano tutti che lì spiegavano il quadro. Io lì, i nani, i nani. I nani, io dicevo riforme, riforme, riforme, riforme, riforme, riforme, riforme, riforme, riforme, riforme. Ragazzi, comunque aveva ragione lui, forse, forse. Quella specie di rito, di sortilegio prodotto il suo effetto. Non neanche per scherzo. Senti, non attribuirgli alcuna patente di credibilità. Senti. Vive del fiume. Tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre 2016, o Matteo Renzi. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Rispunta anche D'Alema. Beh, no, ci ha fatto contenti. Non so. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima, diciamo. Pure vinto il derby, insomma, veramente era difficile. Una giornata perfetta. Un tempo non li potevo vedere. Brunetta dice che è uno spartiacque tra la democrazia e il regime. Che Brunetta, però. Cioè, ha vinto la democrazia. Mm. Mamma mia, ragazzi. Io non ho votato. A me piace il caos. Devo dire la verità, a me piace tantissimo il caos. No, a me no. Dunque, questa situazione in cui c'è il caos, Mattarella, le consultazioni, la Prima Repubblica. Non c'è troppo caos alla fine. Beh, ci sarà il caos, la Prima Repubblica, le leggi elettorali da fare, il casino, spuntano fuori tutti, e Razzi, e il Senato che sopravvive, eppure il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che sopravvive. Tutti sopravvivono, il caos, due leggi elettorali diverse. Amo questa situazione caotica, la adoro! Li avete visti? Ma che avete visto? È pazzo! Ricordiamo tutti come è stata approvata l'Italia come la legge elettorale a colpi di fiducia. Ebbene, è finita. Gli italiani hanno detto di no, è uno spartiacque tra la democrazia e il regime. dai, Brunetta. Poi litiga con quelle di Sky, senti. Litiga con quelle di Sky. Ve l'ha detto, è molto grave. Però Brunetta non le fa nessunissimo effetto festeggiare insieme, ecco, diciamo così, a D'Alema. E perché dovrei? Essere nello stesso gruppo di festeggianti. E perché dovrei? E perché dovrei? Voi mandate in onda i film porno e non le fa nessun effetto che Sky faccia buona informazione. Guardiamo avanti, guardiamo al paese un attimo. Ma dai. Questa è incredibile. Cioè, quelli di Sky gli chiedono: scusi, non le fa un po' di impressione festeggiare con D'Alema, eccetera, eccetera? Che ci sta come domanda, no? Cioè, ma è una domanda tranquilla, normale, sì. Anche scontata, no? Questo fatto che quelli del no erano molto divisi al loro interno, eccetera, eccetera. È una domanda normalissima. Voi fate i film porno a Sky, ma che cazzo vuol dire? Cioè, che mandate in onda i film porno, è meraviglioso. Ma la cosa più bella, ragazzi, la cosa più bella del mondo è lo scazzo tra Gasparri e Rondolino. Sì, come buono. Sapete, Rondolino è uno dei grandi sostenitori di Renzi. La moglie di Rondolino ha lavorato e lavora anche per Renzi. Gasparri c'entra perché è oggetto della discussione tra lui e Gasparri. Sì, a un certo punto Rondolino perde la brocca sulle frasi che abbiamo ascoltato di Brunetta. Senta. L'Italia volta pagina, si salva da una deriva autoritaria e si ritorna alla democrazia. Un punto. Onorevole Morane, allora, per Gasparri. È un tweet della moglie, non è il Brunetta vero. Gasparri, no. È un tweet della moglie. No, senatore Gasparri. È un tweet della moglie. Se uno ha le moglie, la tua ha fatto la consulente di Renzi per guidare una campagna informativa per Renzi. Gasparri, e che vuol dire? Se parli delle mogli, perché tua moglie era la consulente di Renzi? Ma quanto sei sbagliata tua moglie? Ma è un poveraccio, ma ti dovresti vergognare di. Ma ti dovresti vergognare di uno come Brunetta, ma un poveraccio, ritorna la democrazia in Italia, lui, il leccapiedi di Berlusconi, un povero disgraziato con la moglie che fa i tweet grillini. Un ridicolo personaggio, un pezzente della politica, Gasparri. Ma te dovresti vergognare di stare in un partito con un deficiente come Brunetta? Un deficiente, ma come ti permette? Un poveraccio, Gasparri, un poveraccio. Ritorna la democrazia in Italia, ma dove? Allora, ritorna la democrazia in Italia. Ma vergognati, Gasparri, si calmi, faccio il mio mestiere. Lei non può utilizzare parole come pezzente. Allora, è un poveraccio, non è un parlamentare, è un poveraccio. Allora, uno che arriva qua e dice ritorna la democrazia in Italia, è un poveraccio. Gli italiani lo devono sapere, gli italiani, c'è un poveraccio. Il bugiardo patologico ci ha abituato a dire tutto e poi a fare l'esatto contrario, però. Cioè, praticamente, se non l'avete capito bene, già la sabbia ha detto Rondolino. Avete visto? Fermo. Rondolino ha dato del poveraccio almeno 4-5 volte. Non a Gasparri, che stava lì, diceva a Brunetta. E Gasparri difendeva Brunetta. Un pezzente, un poveraccio. Ma cosa? La sabbia in testa. Sabbia in testa è molto buono, però. Sabbia in testa. C'è ancora roba? C'è ancora roba? Litigano ancora, vai. Hai detto che sembra un tweet di sua moglie. Sua moglie fa i tweet per la Casaleggio Associati. Sua moglie fa i tweet per la Casaleggio Associati. E lui è un pezzente, te lo devo ridire. No, è un politicamente può, è un pezzente. Fabrizio, perché non uno è non posso, lo dico lo stesso, uno studio che arriva qua e dice di utilizzare la democrazia. Fabrizio, altrimenti allora e Fabrizio, no, allora dobbiamo dare la linea al regionale, Fabrizio, non vi sentono più, allora. Cioè, ha detto Brunetta non dovrebbe esistere, non dovrebbe uscire di casa e nascondersi sotto il letto, signor Brunetta. Rondolino! Fermi tutti! Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. Bam, bam. votato Richard Benson al referendum, mentre tutta l'Italia si chiede cosa accadrà adesso. Renzi si dimette dopo avere fatto alcuni provvedimenti, come forse gli chiederà Mattarella. Chi viene al posto di Renzi? Sentiamo se Richard Benson ha votato. È fondamentale questa cosa, è fondamentale. Pronto? Sì. Ciao, sono Parenzo. Come è andata col referendum? Cosa hai votato alla fine, maestro? Io non voto. E tua moglie Esther? No, neanche lei vota. Non avete votato questa tornata referendaria pazzesca? Come stai, maestro? Sono Cruciani, come stai? Abbastanza bene. Cioè, oggi stai meglio? Sì. La raccolta di fondi come va? Bene. Meno male. Quanto avete raccolto fino adesso? Un sacco di soldi. Ma quanto in tutto? Ma che te ne frega? Cioè, tipo sì. 5.000 euro. Beh, buono, no? 5.000 euro, giusto? Sì. Stiamo al top. Molto, no, noi stiamo mandando la radio continuamente in ANI, così almeno fate un po' di soldi con la SIAE, capito? Grazie. No, adesso cambiamo un attimo il testo, anziché Nani mettiamo riforme. Ah. Ma non hai votato tu al referendum? No. Ma come mai? Non te frega un cazzo, Non me frega un cazzo. Sì, cioè, giusto. Sta politica tanto che... Possiamo, scusami maestro, al posto, scusami, invece dei Nani mettere Renzi, la parola Renzi al posto dei Nani? No. No, no, no, chiedo scusa. No. Comunque, guarda, noi stiamo mandando... Però suonerebbe bene, Renzi, perché dà proprio l'angoscia, no? Il senso di smarrimento, di paura. Prima c'erano i nani... No. Ma no. Chi erano quei nani? Vi denuncio. No, vi per carità, no, no, per mondo. Carità, ciao. Per carità. Ciao. No, no, maestro. Ci siamo accertati di una cosa, caro Parenzo, sì. Che Richard Benson non ha votato al referendum. Non ha votato. Meno male che lo stai dando a borse chiuse questa notizia. La cosa più interessante potrebbe essere invece capire che atmosfera c'è al CNEL. Ecco, ottimo. Che sì. Nessun italiano sa cos'è il CNEL, già no. Questo è significativo. Cioè è un'istituzione che c'è da un sacco di anni. Il cui acronimo, come tu sai. Consiglio Nazionale Economia del Lavoro. Esatto. Sarebbe stato abolito. Usiamo delle parole anche un po' però alte. Lascia perdere queste parole. Per quei quattro miserabili che ascoltano. Fai bene ad usarle. Acronimo. Però sarebbe stato abolito con il referendum. Adesso invece vive e lotta insieme a noi. Ma secondo me, io proverei a chiamare, ma proprio direttamente, sì. Noi presidenti, vicepresidenti, no, no. Sono dei cazzoni che non hanno niente da dire. Beh, no. Proviamo, sì, ma gente. Insomma, senti, questo... senti questa cosa. Senti. Sì, buonasera, volevamo fare gli auguri, grandissimo risultato. Grazie, la ringraziamo. Siamo felici. Come andiamo? Che giornata è oggi? Che è la zanzara? Sì, è certo. Sì, è certo, per forza. Siamo contenti, tutto a posto. State lavorando però, vedo. Lei è contento, l'importante è che lei sia contento. Breaking news. È appena iniziato il Consiglio dei Ministri in cui Renzi comunicherà ufficialmente le sue dimissioni da Premier. Dopo il Consiglio dei Ministri, Renzi salirà al Quirinale per consegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I nani. Ma dopo Mattarella non si possono mettere i nani. Stupendo. Di nuovo il CNEL, ragazzi, rispondete. Perché ci ha trattato così male il centralista del CNEL? Non lo so. Il CNEL, buonasera. Allora, sì, scusi il collega, sono Parenzo, buonasera. Complimenti. Guardi, non la ringraziamo, però ho detto tutto a posto. Noi... Complimenti, tutto a posto, siete tutti lì, tutto in ordine e non tutto vi hanno cancellato. Meno male. E avete rottamato Renzi, meraviglioso. Noi? Beh sì, insomma, sì. Voi, cioè, anche voi, immagino che lei abbia votato cioè, no. Cioè Renzi perde la poltrona e lei non perde il posto, per esempio. Beh, io non lo so, adesso vedremo come andranno gli altri stiamo governi. Stiamo al top, per ora stiamo al top, però amico resistiamo, mio. Amico mio. Resistiamo lì, al CNEL, con i sindacati, i lavoratori, in questa sede che francamente... è un po' dispendiosa, ma siamo qui a tenere il punto con voi, a tenere la barra dritta. Lo sa che noi siamo amici del CNEL, no? Da sempre. Beh, non mi risulta. No, però... noi non siamo amici. Noi saliamo subito sul carro dei vincitori. Ma comunque, vi, rin- ringrazio, tutto a posto. No, ma lei con la sua, scusi un attimo, lei con la sua famiglia ha festeggiato? No, no, mi dica la verità. Lei è dipendente, no? Certo. Amico mio, state al top. Era già no, stato... non ho festeggiato perché purtroppo ieri ha perso la Lazio. Per oddio, cui questo sono amareggiato. Questo è brutto, questa situazione che è successa ieri mi ha rinfrancato molto. Bravo, molto bene. Lei era già stato trasferito praticamente. Già c'era un ordine di trasferimento che sarebbe stato subito emanato, no, dal signor Renzi. Per la Corte dei Conti? Ah, lei non so dove andava lei. Alla Corte dei Conti. E invece cadete, lì, e invece cade, lì. E beh, cadono sempre in piedi, però, amico mio. Però mi pare ottimo. È caduto Renzi, è caduto tutto, no? Beh, lei è contento che cade Renzi o no? No, io non è che si cade, è caduto. No, beh, è contenta di questa cosa. Non lo so. Gode, sta che... godendo, dai. No, sta... no, non sto godendo, però sono contento di aver lasciato il mio posto tranquillo. Cioè, è contento se Renzi, cioè, diciamo la verità, Renzi gli sta sui coglioni. A lei che anche fa il centralinista al CNEL, dipendente del CNEL, a lei Renzi sta sui coglioni. Un po', o no? questo è appena entrato, ci ha subito falciato. E dunque è contento lei? Ma io tutto a posto, no, ma lei mica fa il politico, può bene dire che Renzi... lavorate però. Io adesso devo fare altre cose. No, non dovete fare nulla. Ma non fate un cazzo, nulla, non fate un cazzo fare. Lì al CNEL, amico mio. Voci dal CNEL. Mauro da Mantova. Mauro, che succede? Mauro, ma che stai ancora in ospedale? Stai? Amico mio, che stai in ospedale? Ce l'hai pigliato in culo. Vabbè, amico mio, sì, si è dimesso adesso. Ma come hai prima utilizzato... come mi pare ci molto godo fine. Come ci godo. Vabbè, che vuoi dire? Oltre a godere del fatto che Renzi se n'è andato e si è dimesso, che cosa vuoi sapere? Ascolta, dimmi. Via quel pezzo infame, volgare ripugnante. Ah, lui volgare, di te. Ma non sto parlando di Mr. Bean, ma di quel frocetto col cassetto con cui giochi in radio, quel frocetto lì. Ma perché? Ma hai detto volgare a lui, hai detto, scusa, hai appena detto frocetto col cassetto. A quel progetto è bravo il cazzo di Parenzo. Quello lì, se vuoi insultarmi, mi deve insultare in diretta, non quando non sono in diretta. Quel coglione infame. Mauretto, aspetta, però, scusa. Fermo! Sì, vabbè, è un infame, vabbè, d'accordo. Il bello è che tu hai esordito dicendo quel lurido volgare e poi gli hai dato frocetto, eccetera. Ma sei pazzo o no? Vuoi fare una volta ogni tanto una considerazione politica? No, una considerazione normale? Allora, io alle 7:15, ti giuro, ti richiamo. La prima volta che comincia a inveire contro Parenzo senza ragione, ti chiudo subito il telefono. Voglio un editoriale di Mauro da Mantova. A più tardi. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. A osannare Salvini, a osannare Silvio, a osannare i movimenti per il no, ma nessuno sa che il merito è di un uomo che ignudo in una fredda mattina di novembre nelle colline toscane si è trovato con 7 discepoli e ha pronunciato le parole magiche: tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano, o Matteo Renzi. Il divino è onnisciente. Siamo sempre al top. Travaglio, gli italiani non vogliono più un padrone. Bah. Bah, bah, bah. Spero che sia l'ultima volta che qualcuno tenta di scardinare la nostra Costituzione. La Costituzione può essere aggiornata in alcuni articoli, ma non può essere scardinata. Gli italiani non vogliono più, sottolineo il più, un padrone. E spero che chiunque fosse tentato di diventare padrone si ricorderà sempre della fine che ha fatto Renzi. Come sapete, c'è una parte di chi ha votato no, caro Parenzo, che vorrebbe andare a votare immediatamente. Sì, immediatamente. Ha interesse ad andare a votare immediatamente. Beh, certo, ma è legittimo, naturalmente, avere interesse. Signor Grillo e signor Salvini. Salvini in particolare. Beh, Grillo, votare il prima possibile, dice, sì, con qualsiasi legge elettorale. Ora, va benissimo, a me non me ne frega nulla, figuriamoci. Viva il caos, sempre viva il caos. No, beh, adesso... Sì, sempre viva il caos. Perché alla fine non è questione di alchimia, è questione anche di volontà politica di fare le cose, non è solo questione di legge elettorale, eccetera, eccetera. Ma sentiamo Salvini, sentiamo Salvini. Questo voto e questa affluenza emozionante e incredibile meritano elezioni politiche il prima possibile. Qualunque sia la legge elettorale che verrà fuori dal parere della Consulta, io penso che gli italiani debbano poter riavere una scheda elettorale per scegliersi i parlamentari e quindi... Allora, voi vi rendete conto di come siamo ridotti noi? Cioè, siamo ridotti per colpa della politica che si è incartata su se stessa. Ad avere una legge... colpa di una parte della politica. Sì, ma lascia perdere, ed è comunque della politica che beh, ha approvato... No, politica, aspetta, questo dice Grillo, una la legge elettorale alla Camera di un certo tipo, l'Italicum, sì, una legge elettorale, quella che è uscita fuori dalla Corte Costituzionale al Senato, sì, c'è un bordello pazzesco. Io godo del bordello, però oggettivamente è un bordello pazzesco. Cioè, non si sa quando si andrà a votare, come si andrà a votare, con che legge elettorale, bisogna rifare tutto, la Camera e il Senato. Cioè, da una situazione molto semplice, che era, c'era una legge elettorale che alla fine assicurava un minimo, bastava un piccolo ritocco al Senato e c'era la stabilità, si è arrivati al caos più indescrivibile. Paese bloccato, referendum. La vecchia legge elettorale riusciva ad assicurare alla Camera sicuramente una maggioranza, bastava fare dei ritocchini al Senato, poi certo è intervenuta la Corte Costituzionale. Ragazzi, sai che vi dico? Che questo paese è ingovernabile. È ingovernabile, no, troppi ricorsi, cose, la Corte Costituzionale che una volta dice che la legge va bene per anni, lascia stare la legge, poi boccia la legge. Andate tutti a fare in culo. Eccola. Andate eccola. Tutti a fare. No, ma non è Grillo. Proprio andate, non ne posso più di queste cose. Mauro da Mantova, vai, Mauro. Allora, dimmi. Allora, eccoci a lei. Dimmi, dimmi. Siccome che i miei fans, e ti sicuro che ne ho molti, ma molti, continuano a crescere di misura. Ma cosa? Ah, i fan, i tuoi fan? I miei fan, sì. I tuoi fan. Ma tu sei stato in ospedale per questa trombosi, sì o no? Non ho capito. Allora, bene. Sono stato in ospedale, ti racconto il giorno. Sì, arrivo però mattino. Bisogna anche, non è che sia il racconto, come no, dire... No, no, ma è semplicissimo. Di Putin, arrivo, cioè, che no, ti no, sei fatto? Arrivo 8:30. 8:30? Sì. Ah, 8:30 di mattina. 8:30 di mattina, allora? No, no, scusa, 12, erano 12:30. Vabbè, ma perché? Ma chi se ne frega? Arrivano... Perché mi sono fatto accompagnare dal mio amico. Ma che cosa avevi? Che cosa non avevi? C'è niente, avevo niente, purtroppo. Una tromboflebite, oh, una tromboarteriosa, una trombosi arteriosa. Ma adesso finalmente. Dove sei? Crepa, merda. Finalmente. Allora, finalmente. Dicevo, c'è giustizia a questo mondo, finalmente. Arrivo 12 e mezza, ci fai stare zitto con la zecca lì, con la mannaccia. Ma non ho capito, alla fine, quanto sei stato in ospedale? Arrivano le 11:30. Di dico, dottore, di sera? Di sera? Sì. E allora... Dico al dottore che era in accettazione, sì, a 12:30. Sai chi era il dottore? Allora gli ho detto, ascolta, sì, lo puoi dire? Sai chi era? Merda, lì, l'ospedale, sai di chi era? È di Monti. No, non è di Monti, ospedale pubblico. Ma perché dici comunisti? No, non voglio essere interrotto da un coglione. Vabbè, adesso non esagerare. Allora non parlare. Ah no, un coglione, dai. Basta che non vedi che continui a parlare, non occorre che parli. Allora, Sono di chi si parla, si ma che è successo concretamente? Che, scusa, è successo concretamente, Mauro? Che allora, è successo? Io avevo 11 e mezza. Dopo un'ora e mezza, due che aspetto, dico, dottore, ma mi visitate o no? E loro? E allora mi fa, quale fa? Abbiamo quattro persone, poi c'è lei. Nel frattempo arriva 11 e mezza. Che arriva? Io dico il dottore, un immigrato. Quale che mi aveva detto che c'erano quattro persone? Siamo alle 11 e mezza e lei non me l'ha conosciuto. E dopo la guardo, forse. E allora? Lì mi è salito l'embolo. Eh beh, immagino. Oh, che meraviglia. E allora ho detto, che magari ci scappa anche un bel infarto. Chiamo il mio amico. Questo suo amico è una vittima. Ma stai zitto, allora. È una vittima, il suo amico. Zero. In realtà è un amico, Mauro, ma allora, in realtà non è un amico, è un assistente sociale, amico, no? Mi prendo, cioè lui... perché metti io il trolley che avevo già preparato. Ti voglio dire, non è l'amico, è un assistente sociale, non è un amico. A sto in un ospedale di comunisti di merda. Ma perché c'entra i comunisti? È un assistente sociale. Che c'entra i comunisti, scusa? Ascolta, se tu non lo sai, ascolta, perché non è rimasto è da 45 anni. Eri saputo. Allora, che hai fatto? No, ma eri saputo. Si chiama ospedale Togliatti. Eri saputo il nome dell'ospedale. Come è finito? 45 anni, eh? Com'è finita la cosa? La storia, com'è finita? Che purtroppo sta bene. Al pronto soccorso non l'hanno visitato. Non ti hanno visitato perché non c'avevi un cazzo, niente, nulla c'era, purtroppo no, ancora lì. No, perché lì danno la precedenza agli extracomunitari clandestini, perché sono quelli che vanno a votare. Sì, l'ho mandato io quel giorno. Ma non tutti. È vero. Adesso, la prossima così, volta, certo, anche se la prossima volta che fai? Prendo il treno che fai? E me ne vado a Verona. Oh mamma mia, che viene? Verona. Dove viene? A Roma. A Verona che fa? Brescia. A farsi visitare. Perché quello di Malta non è sufficientemente grande. Ma chi se ne frega? Ma qual è il punto? Ma chi se ne frega dove vai tu? Ma uno poteva morire. Ma che cazzo lei ci conosce? Ma che ne so, poteva morire. Ma che poteva morire, dai. Poteva, appunto, poteva. I trombosi puoi morire. Porca troia. Ma scusa, hai votato alla fine o no ieri? Ah? Hai votato o no? Oppure non c'è più la tessera elettorale? Ho fatto anche il video. Bravo, così ho invalidato tutto, giusto? Va bene. Meno male. Perché? Pelù, che ho dovuto cambiare. Pelù. Le matite. Le matite, perché tu credi a questa storia delle matite? Io l'avevo già detto. Le matite, infatti sono visti i brogli con le matite che ha vinto il no dei 10 di 8 di 6 milioni di voti. Ma dai, su. Ascolta. Sai chi è le matite? Sai chi le ha fornite le matite? Quando siamo andati a votare, ne ho dovute cambiare tre. Sì. Perché si matite, cancellavano. Sì. Perché le hai rubate. Tu rubi anche le matite dai seggi, questo ma fai. Zitto, merda, perché non hai niente. Hai Tachi, le matite che le rubi dai seggi per rivenderle. Ascolta, Cruciali, ora ti faccio sentire. Ma chi vorresti? Mauro, chi vorresti premier tu? Lo sai chi vorrei. Chi vorresti? Non c'è più. Berlusca, chi? No. Chi? Quello che avevo addosso. Ma Marco da Roma, dai, no. Ciao Mauro, Marco. Dai, Marco. Ciao, buonasera. Dimmi, Marco. Ciao. Dimmi, sì, Marco, amico mio, dimmi. Sì, no, io dicevo che tutta la polemica, insomma, per la sconfitta di Renzi, in realtà potrebbe essere pure il contrario, nel senso che lui da solo ha coagulato. Ha raccolto 12 milioni e mezzo di voti, quindi è una delle teorie, è una delle cose di cui si parla, no? In fin dei conti Renzi da solo ha preso chi ha votato sì, 40% più o meno, certo. Sono tutti i voti di Renzi, sì, vabbè, certo, però sono solo di Renzi, certo. Da solo contro tutti, quindi non è che gli altri possono fare tanto peggio. E soprattutto ha ragione questo ascoltatore, perché gli altri sono non una cozzaglia, sì, ma però hanno interessi diversi. Però. Cioè il fronte aveva un interesse comune, nessuno, che era quello nessuno, di disarcionare Renzi. Vi prego di fare una cosa. Sì, questo ascoltatore dice una cosa verissima. Questo è stato uno spartiacque, è come se fosse stata delle elezioni politiche, o sì o no, o da una parte o dall'altra, a un presidente. Ho capito, però, ragazzi, quindi secondo me questa è un'indicazione sulle presidenziali. Sì, però adesso questo, non ci sarà nemmeno dopo. Siccome non è Marco, stiamo tranquilli. Adesso il punto fondamentale è uno. Qui c'era da approvare o non una riforma. E Renzi ha perso. Poi tu dici: in realtà ha vinto politicamente perché ha preso il 40% e sono tutti i voti suoi. Ha vinto? No, non si può dire che ha vinto politicamente. Questo Davide non si può dire. Da Milano, fammi sentire Davide da Milano. Sì, buonasera. Dimmi, Davide. Volevo fare una proposta per una nuova candidatura a premier. Sì, è chiaro che c'è bisogno di un governo di transizione, con una nuova legge elettorale. credo che una persona che potrebbe mettere d'accordo quasi tutti tranne i populisti potrebbe essere Sergio Marchionne. Ma sì, per me potrebbe essere domani mattina bellissimo governo Marchionne, domani mattina. Ma per carità, governo Marchionne, ma per carità, la stabilità finanziaria nel frattempo porta un signore che ha la residenza in Svizzera, ma per carità, i populisti aspettano un po', se poi il popolo decide di eleggere i populisti nel 2018 va bene. Sì, Marchionne con la residenza in Svizzera fa il premier. Fermi tutti. Vogliamo Parenzo sindaco di Frosinone. Parenzo comanda Frosinone. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. A Natale fai battere il cuore. Regala Stroili, 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La Zanzara. Raga, vado in giro con il podcast della Zanzara, rido come un coglione da solo e la gente mi fa: ma cosa cazzo ridi? E l'unica risposta che gli posso dare è: ascolto la Zanzara, subumani! Sai l'unica cosa, veramente l'unica cosa per cui godo? Cioè, godo per tutti quelli che si erano attaccati al carro di Renzi, da Alfano in giù, e che adesso vedono crollare tutto. C'è il governo che si dissolve. Beh, e dunque anche le loro poltrone. E forse saranno i primi a saltare magari sul carro dei futuri vincitori. Tutti quelli che erano usciti da Berlusconi ed erano andati con Renzi. Calma. E che adesso vedono crollare tutte le poltrone. Calma. O comunque c'è questa possibilità concreta che queste poltrone si dissolvano. Beh, certo, se cade il governo, vanno tutti quanti a casa e c'è un nuovo governo. Vogliamo fare qualche nome. Tutto scorre in politica. Qualche però. Ministro ex berlusconiano di ferro che poi è diventato renziano di ferro. Come godo. Per queste persone io godo, perché sono persone che si sono attaccate solo ed unicamente alla poltrona. No, ma magari hanno abbracciato anche un cambiamento, l'idea di un riformismo. Perché devi vedere sempre tutto in modo così cinico, putrido? Godo per queste persone qua, godo. Attaccate unicamente alla poltrona, solo ed unicamente ai privilegi, alla poltrona. Perché hanno un consenso zero e in qualsiasi altro paese non avrebbero manco uno strapuntino, nemmeno uno strapuntino. Comunque la cosa sicura è che se non si cambia la legge elettorale non si va a votare. Vabbè, quindi stai tranquillo. Stai tranquillo, quindi stai calmo. Domenico Macerata, la giornata è lunga ancora. Domenico Macerata, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. Volevo solo dire una cosa. A me non mi interessa chi ha vinto, chi non ha vinto. Ma è ora di fare un nome. Vincenzo De Luca premier. Questo è buono. Questo potrebbe essere una buona idea a questo punto. Cioè nel caos generale il governatore del mondo, pensate che colpo di scena che sarebbe, prende in mano l'Italia. Sarebbe una gioia immensa. Sì, devo dire che non è andata bene nemmeno per De Luca in campagna. No, la campagna ha votato massicciamente a favore del no. Signor De Luca, questo significa anche che le famose clientele di De Luca, i famosi pesci, le famose fritture non hanno funzionato molto. Per nulla. Non hanno funzionato molto. Mauro da Torino, vai. Non è Mauro da Mantova? Dove... Meglio. Bisogna dire una cosa a Mauro da Mantova, dopo gliela dico. Non è quello che non pagava le tasse, Parenzo. Adesso si lamenta all'ospedale pubblico? Mauro da Torino. Ah, già, è vero. Mauro, dimmi. Dai, Mauro, dimmi. Ciao Cruciani, ciao vai. Parenzo. Sentite, io volevo fare solo una riflessione, diciamo, breve su questo referendum. Io, visto che Sud ha votato in maniera massiccia e con percentuali del 70% a favore del no, sì, allora anche il Veneto ha votato a favore del no. Le regioni più, diciamo, evolute italiane, la Toscana che evolute ha votato perché sì. Le altre che sono della merda? Diciamo che non sono evolute e sono allora, avanzate come la Tosca. Che bisogna io fare? La cosa che potremmo proporre è una bella secessione nei confronti del meridione. Ma che vuol dire? Ma roba vecchia di cui non parla più nessuno. Ma ormai, non è tanto la vecchia. Secessione. Abbiamo per l'ennesima volta il meridione ha dimostrato di non essere in grado. Non è stata capace a ragionare. perché chi votava, sì ragionava e chi votava so non ragionava, non, chi votava no non ragionava. Quelli che, non, che hanno votato no, il 90% hanno votato solo per andare in culo a Renzi. Solo ma per che ma quello è legittimo. È legittimo anche andare in culo a Renzi. Cioè, è sì, tutto è legittimo, sia andare in culo a Renzi. Non c'entra niente con la. Con sì, la, ragazzi, con la, è tutto legittimo, sia andare in culo a Renzi, sia voler far cadere il governo attraverso il referendum perché è lo stesso governo che l'ha personalizzato, eccetera, eccetera. È tutto legittimo. Dunque, non dite quelli che hanno votato no, non hanno ragionato la pancia, invece quelli che hanno votato sì non sono più fighi, ragionavano, il paese era riforme. Sono tutte cazzate. Fermi tutti, il comitato per il no ringrazia, anzi si felicita con il CNEL che sopravvive, lotta e vive insieme a noi, caro Parenzo. Il CNEL sopravvive anche questa sicuro. Volta. Pronto? Sì, buonasera, sono Bianco del comitato del no, parlo col CNEL. Sì, buonasera. Sì, buonasera. Beh, ce l'abbiamo fatta, viva Dio. Ce l'abbiamo fatta. Eh? Spero che anche lei condivida la nostra gioia. Abbiamo salvato dei posti di lavoro, le indennità, e abbiamo mandato a casa Renzi. Guardi, io non so quanto le posso dire. Comunque condivido la gioia con chi è felice, veramente. L'articolo 99 della Costituzione non verrà cancellato. Ma si rende conto? Tutta la Costituzione salva. Vabbè, ma al CNEL farete un party, farete una festa, no? Domani ci incontriamo con tutto il personale, il presidente, il segretario generale, tutto quanto il personale, e discutiamo infatti di questa nuova era. Che adesso tra l'altro ci dovrà mettere da... la Presidenza del Consiglio, tra l'altro, si dovrà mettere sotto al lavoro, che non ci abbiamo più neanche quello, il Presidente del Consiglio si è dimesso. Beh, poi, senta, mi perdoni, non, eh. Nomina lui. Però una bella pernacchietta a Renzi gliela possiamo pure fare, no? Vabbè, chiaro, quello aveva puntato tutto su questa... È per quello dico. La ringrazio della telefonata. E viva il CNEL, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Allora ragazzi, come avete sentito, al CNEL si respira aria di festa, caro, anche nelle telefonate che abbiamo fatto prima tra il centralino eccetera eccetera, si respira aria di festa perché sopravvive, viva e lotta insieme a noi. Allora ragazzi, abbiamo con noi Michele Santoro, buonasera. Oh. buonasera buonasera a tutti, come stai? Molto Michele? Molto bene. Bene, abbastanza. Esco da... Da che cosa? Da un tour de force? Da due giorni terrificante di febbre allora, alta. Anche Renzi esce da un tour de force. Non so se ha la febbre. Non mi paragonerei, diciamo, francamente. Sto molto meglio. Stai molto meglio tu nonostante la febbre. Esatto. Allora, diciamo subito una cosa, che domani e dopodomani, sì, correggimi ottimo se sbaglio, Michele, nei cinema italiani, questa già è una novità, diciamo, nei cinema italiani... C'è una cosa... Solo che per due giorni, quindi mi raccomando, andate. È come l'evento che hanno fatto pure... Perché non voglio fare paragoni, ma non è... Diciamo, è una cosa nuova perché è un film documentario sui ragazzi di Napoli che si sparano tra di loro, ma i protagonisti sono veri per due giorni al cinema, e ci sarà pure domani, credo, una presentazione ufficiale da parte di Michele, che sarà lì, no? In contemporanea. Al cinema Adriano a Roma, esatto, alle 19:30, che è collegato con tutte le sale italiane. Senti, ma perché ti è venuta in mente questa follia? Cioè questa follia di fare un documentario vero con protagonisti veri che raccontano storie crude di sparatorie, insomma quello che si vive a Napoli, perché sono veri i protagonisti, giusto? Guarda, intanto di follie come queste, diciamo, sono pieni i miei scaffali, soltanto che fino a oggi io ho sempre lavorato con la fretta che era determinata dalla maniera prevalente con la quale distribuivo questo mio lavoro, però abbiamo avuto dei piccoli capolavori fatti anche in collaborazione, sì, con i miei migliori colleghi come Riccardo Iacora. Da sempre ricordo Tutti Ricchi, che è stato un piccolo capolavoro nel suo genere, ma anche La Mafia Bianca. Ma quanto dura questo? Quanto dura Robin Hood? Questo dura 97 minuti. Quindi è un film. Beh, è un film vero e proprio, ed è la prima volta che dei ragazzi raccontano la loro esperienza criminale senza prima essersi pentiti. Dove stanno questi qua adesso? In galera? In questo momento loro sono in galera, però ci sono poi le loro famiglie fuori, la storia si sviluppa anche dentro i vicoli di Forcella del centro storico napoletano. Allora ragazzi, ma come avete fatto a convincerli, scusa, a raccontare? C'è stato un lungo lavoro di avvicinamento, e soprattutto grazie le mie due collaboratrici che sono Maddalena Oliva e Micaela Farrocco. Ma anche di permessi o no? Beh no, più che di permessi sono dovute entrare proprio in un rapporto di fiducia, certo. Sono state in carcere moltissimo insieme a loro e quindi hanno creato un rapporto di profonda empatia e quindi sono riuscite anche a fare in modo che quando poi hanno parlato di fronte alle telecamere quasi si erano scordati dell'esistenza delle telecamere, quindi viene fuori un ritratto nitido, chiaro, crudo e nello stesso tempo spietato. Allora ragazzi, se avete voglia, domani e dopodomani, che solo due giorni dura, cioè due giorni... Io vado, poi io sono andato a vedere recentemente, c'è stato, è un esperimento interessante, dicevo prima, è molto diverso, però sono andato a vedere per esempio il film sulla Juventus che hanno fatto, sì. E più o meno, diciamo, sono cose molto diverse naturalmente, però adesso c'è questa cosa che è interessante, cioè per due giorni tu vedi un evento, magari poi se va bene si ripropone, che ne sai? Vabbè, sì, no, può continuare ovviamente in alcune sale. È sempre un lavoro ma si guadagna da queste cose, Michele, io sono curioso di queste cose, si guadagna o no? O lo si fa per amore, in grazia d'amore dei complessivamente si guadagna, poi sai, queste cose si sa quando cominciano e non si sa quando finiscono, perché ti ripeto, prima erano lavori che noi facevamo di fretta, ci sono 8 mesi di lavoro dietro, quindi anche un grande investimento economico, sì. Da parte mia in particolare. Però è il primo vero episodio di un laboratorio che rompe, diciamo, i ponti col passato e che cerca di andare in un'altra direzione. Senti una cosa, ti chiedo qualcosa di politica. Allora, che succede adesso secondo te? Cioè, no, beh, questo lo so, è una domanda non ridicola. Non che succeda al fatto, gli hai chiesto. No, al fatto no, perché no, a proposito del fatto... Ti vorrei dire che cosa secondo... No, ma... No, ma perché... Che cosa secondo me... Che dovrebbe fare Renzi? Mettiti nella testa di Renzi. Allora, ecco, che sì, tu fossi, esatto. Renzi... Io direi al posto suo, scusate, la gente è andata a votare in una grande manifestazione di democrazia e di partecipazione. Sì. C'è stato un voto che tutti hanno definito come un voto politico. A questo punto, diciamo, si è formata una maggioranza di no. Secondo me è utile chiedere a questa maggioranza di no di indicare le vie d'uscita in questo momento. Io posso stare pure un attimo... dall'altra parte, visto che sono stato sconfitto, ad aspettare quali sono queste soluzioni prodigiose che... Ma si dovrebbe dimettere anche da segretario del PD, secondo te? Ah no, secondo me non si dovrebbe dimettere da segretario del PD, però non è un'eventualità che possiamo in questo momento escludere. Cioè, però comunque mi sembra... È mi molto sembra toccato, è molto provato. Mi sembra ovviamente di capire che tu quello che è successo è il risultato di un suo errore colossale. Questo è, cioè, la mia opinione che ho detto in tempi non sospetti, cioè lui doveva rimanere abbastanza fuori da questa contesa referendaria, cioè doveva fare 3-4 apparizioni importanti, vero, video, per spiegare cos'era questa riforma costituzionale e non legare dedicarsi all'attività di governo. Lui ha dato la sensazione di voler essere lui a stravincere e di voler stravincere anche un po' da solo, cioè io l'ho definito fare l'uno contro tutti facendo anche la parte di Maurizio Costanzo. Ora questa cosa qui secondo me è stato un errore colossale, un errore anche di arroganza, ma a parte il fatto un errore di comunicazione, perché quando tu vai in overdose e cominci a comparire anche nel segnale orario, fare cucù, insomma vanifichi la... Per cui, però da questo punto di vista uno potrebbe dire, siccome è stato presente veramente ovunque, come dici tu, ma allora non conta troppo essere presente in televisione, cioè è stato presente ovunque, no, dipende come ci sta. Essere presente in televisione conta moltissimo, non è vero che questa quantità determini un risultato favorevole, anche perché i luoghi che preferiscono, diciamo, i nostri politici hanno perso efficacia, per esempio i grandi telegiornali sicuramente rimangono luoghi frequentatissimi, però non hanno più la forza, l'autorevolezza che avevano una volta. Per cui quando i miei amici, appunto, del fatto denunciano l'editto bulgaro, eccetera, eccetera, ancora in attuazione, dicono una cosa che francamente non corrisponde alla realtà, perché non c'è la stessa efficacia che avevano allora i telegiornali, ma soprattutto oggi abbiamo un antidoto che è la rete. Per farti un esempio, loro dicevano: ma nessun telegiornale ha trasmesso l'audio di Vincenzo di De Luca, sì. Ma chi se ne frega, ma, ma no, se tu lo metti su Facebook l'hanno già visto tutti, milioni di persone lo guardano, sì, lo sentono tutti, quindi la censura che poteva fare Berlusconi all'epoca non la può fare più nessuno. Senti, ma a proposito, ho letto da qualche parte che tu andresti via, cederesti le quote del Fatto perché, perché in contrasto con Travaglio, sì o no? Cioè resti da dentro o no? No, io non ho nessun contrasto con Travaglio, nel senso che Travaglio è il direttore del Fatto, come è noto, ha deciso di sposare una campagna che lo ha visto, diciamo, protagonista, forse il principale protagonista. Io non ho avuto niente da obiettare su questo, perché secondo me era nelle sue prerogative. Poi quando lui sposa una causa la fa sempre, lo fa sempre con però grande hai detto passione. Che questa, che è una caserma che non ti, così è una caserma, no, quale caserma, obietto sul modo come fanno il giornale, cioè nel senso che se poi diciamo questa passione che portano per fare una battaglia, insomma, si trasferisce anche a, che so, all'ultimo pezzettino di cronaca che loro scrivono, e allora abbiamo un'alterazione della funzione fondamentale di un giornale, che per me resta quella di raccontare. Per cui non ti senti a disagio a stare là? I fatti, appunto, no? Come si chiama il giornale. Quindi io mi sento a disagio, però è un problema mio, non è un problema di Travaglio. No, no, però voglio dire, resti là dentro a livello, diciamo, di tue quote, di partecipazione, eccetera, oppure pure le vuoi vendere? La mia quota di partecipazione non ha nessuno scopo di lucro, come tante cose che io faccio, diciamo. Nonostante le descrizioni che fanno di me quelli del Movimento 5 Stelle, anche se non vogliono mai venire a controllare di persona come stanno le cose, perché ovviamente dovrebbero smentirsi, loro preferiscono seminare danni e calunnia, perché dicono che tu hai preso una posizione. A proposito, come hai votato? Io come ho votato? Ho votato poi alla fine. Hai votato sì? No, dico come ho votato. Potrei aver annullato, No, ma è d'accordo, beh, sì, certo. Era la mia posizione iniziale. Esatto, infatti, volevo o scheda bianco annullare eccetera. Alla fine come hai votato? Sono coerente, non lo dico, basta. Ma come non lo dici? Scusa, ormai è ormai andata, che te frega? Certamente non ho vinto. Non hai vinto? Allora hai votato sì, hai votato sì. Sicuramente non ho votato no, questo non Allora le alternative sono o sì o scheda bianca o nulla. Appunto, sono le alternative, sì, sono ben tre. Così però è un po' una paraculata, Michele, così, dai. Adesso non è una paraculata. A giochi fatti lo puoi dire. Senti, guarda, ho provato a scrivere in tutti i modi, però so che è faticoso oggi cercare di leggere ciò che uno scrive. No, ma io l'ho letto. Allora, insomma, e l'ho detto che non avrei preso una posizione definita, perché vedevo tantissimi difetti nel modo come era stato costruito il percorso della riforma. Innanzitutto anche sul fatto che si fosse andato avanti senza tener conto del necessario coinvolgimento di un arco di forze più ampio. Quindi l'ho detto fin dall'inizio. Francamente trovavo però risibili tutte le obiezioni che la dittatura, il superamento del bicameralismo, che secondo me comunque era una cosa importante, abbastanza positiva e importante, che la riforma Ma guarda, come me, guarda, io non sono andato a votare, ero preoccupatissimo dal fatto che ci fosse l'Italicum, perché l'Italicum faceva orrore, quindi c'era questo elemento che per me era molto condizionante, che però Renzi, come sapete, ha tolto di mezzo. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Molti hanno scritto, anche persone che sono state vicine a te, diciamo, dal punto di vista professionale, che tu ti sei, non dico avvicinato a Renzi, ma che hai detto che è l'unico leader in campo, che non ti sei schierato per il no, per una tua convenienza, per tornare in Rai a fare il tuo mestiere. Come rispondi a questa persona? Primo che non sono tornato in Rai, quindi diciamo tranquillamente. Beh, una cosa su Rai 2 l'hai fatta, no? Continua a farlo, no? Ma io ho venduto un programma che si chiama in mano, non vedo che cosa, quali sia questa, questo tornaconto sterminato. Considerato che per farlo ci ho perso 30.000 euro, e ripeto, i conti sono a disposizione di tutti quelli che vogliono venire a controllare. Calunniatore, è tutto fatturato, cioè, al contrario di quello. In che senso ci hai perso 30.000 euro? In questa storia della Rai ci hai perso 30.000 euro? Certo, perché quando fai un programma, gli avi in mano, impegni a consegnarlo a quei costi. Cioè, per esempio, una tua ex allieva, Luisella Costamagna, ha scritto: Santoro da servire il popolo a servire Renzi. Ma io non ho mai avuto come allieva Luisella. Vabbè, allieva, una che ha lavorato con te, dai. Semplicemente una mia scoperta. Esatto, vabbè. Allieva, dai, era per semplificare. Ma le malignità si dicono sempre. No, le ha scritto da servire il popolo. Se fosse una mia allieva non direbbe queste fesserie. Da servire il popolo non a servire. Non sono quelle Renzi. Che insegno io. No, ma incredibile. Ma lo vedremo mai in Rai, Robinù? Sì. Diciamo così. Ma il tuo film lo vedremo in Rai o no? Eh? Il tuo film, Robin Hood, lo vedremo in Rai? Ah, magari mi auguro di sì, prima o poi. O magari alla 7, o a Mediaset. Ma alla 7, figuriamoci, alla 7. Diciamo, per vendere un film alla 7 devi firmare, diciamo, un accordo con Cairo che lo manda gratis e magari... diciamo, mandargli anche un pacco di salami a Natale. Cioè, quindi questo... Rai. Cioè, parliamoci chiaro, nessuno ha il coraggio di dire che la 7 non è una televisione, ma io lo posso dire tranquillamente. Cioè... In che senso non è una televisione, scusa? Beh, non è una televisione completa, è come dire, uno strumento, è una sorta di CNN alla matriciana, diciamo, attualmente. Cioè, dipende molto dall'umore esterno. Ha perso anche Crozza, che era l'unico... prodotto alternativo, diciamo. Ti rubo un altro minuto dopo la pubblicità, Michele, un attimo. La Zanzara. Eccoci qua, ragazzi. Allora, abbiamo con noi Michele Santoro. Voglio subito chiedere una cosa. Michele, tu hai avuto parole molto dure nei confronti del Movimento 5 Stelle negli ultimi tempi, soprattutto. Questo è divertente, no? Loro mi chiamano venduto, caviale e champagne. No, molto duro nei giudizi politici. Io sono molto duro. Nei giudizi politici, su quello che è il Movimento 5 Stelle. Hai detto che è un movimento che sono di destra pure. Certo, non l'hai detto in maniera populista. Questo è duro, cioè è quello che penso io, che stanno perdendo la loro caratteristica di eterogeneità che avevano prima . E sempre di più stanno acquistando una dimensione di destra, però a questo si può replicare tranquillamente dicendo che non è vero e spiegando perché non è vero. Ma poi, un governo grillo sarebbe scusate, ma vi rendete conto che ci troviamo di fronte alla forza che appena vinto, diciamo, il referendum, la forza principale che ha vinto il referendum per difendere una Costituzione nella quale non credono assolutamente, cioè una Costituzione che prevede il non vincolo di mandato per il parlamentare, cioè il parlamentare deve rispondere soprattutto ai suoi eletti, loro gli fanno firmare il contratto prima di essere eletto e quindi non credono nella Costituzione, non credono nei partiti, mentre invece la Costituzione è basata sull'attività dei partiti e sulla democrazia rappresentativa. Di Battista, che sarebbe il loro, diciamo, Che Guevara, diciamo, vai a dire che invece loro sono per il superamento della democrazia rappresentativa. Quindi cosa c'entra questa Costituzione che hanno fatto i padri costituenti, che poi erano tutti leader di partito, non erano, diciamo così, i zagrebeschi dell'epoca, no? Ma è un movimento autoritario, cioè un movimento che è basato su che cosa? Cioè, un movimento è basato su una grandissima capacità di intercettare il senso comune che proviene dalla rete, questa è la principale qualità. Sono pericolosi, secondo te? È pericoloso il sentimento che loro interpretano. Quindi, per esempio, il fatto, provate a chiedere qualcosa sull'immigrazione al Movimento 5 Stelle, vedrete che avrete risposte molto reticenti. Simile alla Lega, alcuni. Beh sì, diciamo, c'è una bella concorrenza. Cioè, un governo grillo sarebbe un disastro per il paese? Un governo grillo sarebbe molto divertente, diciamo, soprattutto se fosse lui a interpretare la parte del leader. Ma è come mandare Joker a governare Gotham City, dai, è uguale. Cioè, comunque sarebbe Joker, sarebbe divertente sicuro. Cioè, poi noi siamo degli osservatori, scusami, chiaro. Quindi alla fine tutto ciò che accade di nuovo intorno a noi finisce per coinvolgersi in maniera positiva. Ma io infatti non mi diverto come un pazzo. Anche o le altre strutture economiche della società, la società. No, ma infatti secondo te per l'economia del paese sarebbe un disastro per l'economia del paese, un governo dei 5 Stelle, Di Maio, Grillo, quello che è. Allora, per favore, se ci riuscite, invitatelo alla Zanzara, vi fate spiegare qual è la linea sul lavoro di Grillo. Non c'è. Spiegare. No, lo stipendio, no, lo stipendio minimo. Il reddito di cittadinanza. Non solo lo stipendio minimo. Siccome ho visto questo spettacolo dove lui spiegava esattamente come funziona questo stipendio minimo, che poi rimane a casa fino a quando qualcuno non ti chiama. Sì. Cioè, io immagino, diciamo, la ola che si leverebbe nei quartieri napoletani che io racconto nel mio film, diciamo, che finalmente possono avere anche un salario garantito, sarebbe sicuramente una base di consenso straordinaria, inapplicabile totalmente, dai. Beh, non so se è inapplicabile, sarebbe entusiasmante in certi punti, non so quanta diciamo economia positiva produrrebbe. Senti, un'ultima cosa, quanta dignità soprattutto perché io credo nel fatto che uno che lavori è sempre una persona che ha una dignità che ti consente di essere un cittadino completo. Senti, un'ultima cosa, ma De Luca lo consideri una iattura per la Campania? Tu che sei... Guarda, De Luca, vi stupirò, è una persona di una straordinaria qualità intellettuale, è una persona molto raffinata, lo conosco da quando avevamo 18 anni, eravamo amici, ci scambiavamo, diciamo, come dire, le conoscenze, perché lui era un liberale gobbettiano, incredibile a dirsi, mentre io invece ero uno studioso di Gramsci, diciamo già a quella tenera età. E poi dopo ha assunto pure lui queste modalità di comunicazione tipicamente dell'epoca, cioè sguaiate, veramente inaccettabili in qualche caso, francamente. Ma è una maschera ormai. Da censurare. Ma è una maschera che lui ha assunto, perché lavora in un territorio dove ha operato in maniera straordinaria e quindi ha un consenso molto largo e quindi si può permettere questa volgarità come Grillo nel suo territorio, che poi è la rete, si può permettere le sue volgarità. Però ci ho detto, questo gli impedisce di svolgere un ruolo. Cioè, un politico straordinario, secondo te? Potrebbe essere un ottimo politico anche per la nazione, invece non lo è, perché ha assunto questo ruolo di macchietta, diciamo, ecco. Mattarella ha parlato, dimissioni Renzi dopo. Se sei un caratterista non può essere un protagonista, ecco. Sì, Mattarella ha appena detto dimissioni di Renzi dopo l'approvazione della manovra. Sì, devo dire che sono fa. Fumisterie politiche. Beh, fumisterie, insomma. Sì, sono piccole fumisterie gestioni politiche. Gestioni della crisi. Vediamo che dice Renzi. Vabbè. La porta lui fa questo ultimo sacrificio. Ma ciao Michele, comunque, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, presto. Ciao. Saluti. Ciao, ciao, ciao, saluti. Ciao. Ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Luigi, provincia di Chieti, vai. Buonasera. Dimmi. Ascolti, volevo intervenire dicendo a Parenzo che finalmente ha la possibilità di fare una cooperativa insieme a Renzi ed aprire un bel centro di accoglienza, così può dare libero sfogo alla sua capacità di assorbire gli immigrati. No, io non devo assorbire proprio niente. Apri un centro di accoglienza. Andrò lunedì 12. Sì, assolutamente. Il 12 dicembre andrò a Lampedusa e racconterò da Lampedusa un progetto straordinario. Ma chi se ne frega? In diretta, no? Perché questi miserabili che continuano a chiamare dicono: portati a casa tua gli immigrati. Lei è un miserabile. La tua politica e dei suoi amici. Ma io non ho nessuna politica. Io devo raccontare quello che succede. Una parte dei razzisti di votare per la Brexit. Ma cosa c'entra la Brexit? Io lunedì 12 dicembre chi sarò se ne frega, a Lampedusa, vai all'attacco, Luigi, vai all'attacco. Gli immigrati per raccontare un nuovo progetto che si chiama Sanità di Frontiera per curare i migranti che arrivano. Andatevene a Lampedusa e prendete il traghetto di ritorno per la Tunisia, il Marocco, tutto il Nord Africa. Lei, Renzi e tutto il PD, compreso gli amministratori del PD dell'Abruzzo, dobbiamo chiedere scusa un altro po' presidente della regione che ci ha messo in ginocchio la sanità. Ma cosa dice? Fermo lì, Savino da Brindisi, vai. Ma Savino. È impazzito. Savino, chi è? Sei la top, Cruciani. Dimmi, Savino, dimmi. Della merda. Sì, top sì, della merda ci cosa, sei tu. Se mi fatta avanti facciamo un culo grande come una caverna, ti piace, sei contento? Ma allora dici, comincio Savino? Con il conduttore Poletti e Nuculione come Parenzo e Cruciani. Ma di che stai parlando? Cubo. Parenzo. Questo qua non sta bene. Di mestiere fa il cretino. Questo non sta bene. Burlecchino Dani, uno dei quali è Cruciani. Questo l'ho scritto il 17 novembre. Ma caspita, dolce stil novo, Parenzo, con siamo al dolce stil novo, proprio incredibile. Un poeta. Io per parenti non chiamo i familiari, i parenti quelli come a lui, allora... ha occupato tutte le fogne. Tutte. Delle fogne ci deve andare Vincenzo De Luca, non c'è a posto. Ma perché non ti fai curare? Perché non ti fai curare? Sistema sanitario magari costa. Ci deve andare pure Santoro. Perché non ti fai curare? Fatti curare. Tu secondo me, tu sei Sansone, Mario Sansone con tutti i filistei. Io non credo che tu sia così sporco da aver votato sì. Non lo credo. Io non ho votato proprio. Non ho votato proprio. Possibile. Sei un imbecille. Tutte le televisioni e le radio. Sei malato. Fatti curare. Renzi, che a sua volta è Pinocchio, al servizio di Gatto Rosso. volte. Sì, sì, continui a parlare, chiudo. Sì, continui, sì, certo. La legge elettorale. Questo è Cosmo. Cruciani, il top della merda. Eccola che è arrivata. Eccoli qui. Eccoli qui. Stanno arrivando i nostri amici. È un'aberrazione. Eccolo. Che anche un bambino. Adesso arrivano due signori. Adesso arrivano due signori e ti portano via, cretino. Anche un bambino di quinta elementare. Ti portano via. Giacomo da Treviso. Sì, continui pure. Arrivederci, grazie. Giacomo, vai. Dimmi. Volevo partire dal fatto che secondo me chi ha votato no non l'ha messo nel culo a Renzi, ma si è messo nel culo da solo. Ma perché no, Renzi... ma ragazzi, ma questa è una stupidaggine. Ma scusa, ma Renzi ha avuto la dignità e l'onestà di dimettersi. Vabbè, si è dimesso perché ha detto, scusa, sì, ragazzi, però dovremmo andare a riprendere gli audio. Cosa? Renzi ha detto che si ritirava dalla politica. Sì, si ritirava dalla politica. Si è fregato da solo, ragazzi, dai. Cioè, di che parliamo, dai? E dovrebbe fare così, si dovrebbe ritirare dalla politica. Lui e la Boschi si dovrebbero ritirare. La Boschi l'ha detto, lui e la Boschi hanno detto, e lo voglio fare risentire, non mi interessa, lo voglio fare risentire. Voglio fare risentire Renzi che dice che si ritira dalla politica, e mi sembra pure la Boschi se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo è uguale. Ha detto che si ritirano dalla politica e adesso dovrebbero essere coerenti. Per questo a me non mi piacciono queste cose di questi giorni. Qui la Renzi deve restare, si deve, purtroppo lo dico per lui, si deve ritirare dalla politica perché ha detto che sarebbe tornato a fare quello che faceva prima, che effettivamente non si capisce che cos'era, ma lavorava nell'azienda del padre. Dunque dovrebbe ritirarsi dalla politica, così ha detto e così dovrebbe fare. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... La referendum... Ma non è che smetto, non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Ragazzi, bisogna sempre tenere a mente queste parole. Cioè, Renzi ha detto da Fazio, non mi ricordo quanto, ma poco tempo fa, ha detto mi ritiro dalla politica. Dalla politica. Non è che può passare sopra queste però cose, sai, qui. Poi ma ho capito. Lo chiameranno a furor di ma popolo, che vuol dire? Non vuol dire niente. No, ha detto che prego, uno... Fermo, allora, se Renzi si ripresenta a fare un discorso politico dopo il referendum, uno dovrebbe mandare in loop questa roba qui. Ha detto io, se perdo, mi ritiro dalla politica. Ragazzi, è così, pure la Boschi l'ha detto, giusto? Risentiamo pure la Boschi, dai. Ma se Renzi perde e se ne va e lascia la politica, lei lascia la politica o no? Sì, perché sì. Ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Ragazzi, ma le parole restano, non è che possono rimanere, cioè non è che possono volare. Renzi e la Boschi hanno detto lasciamo però la politica. Come ci ha insegnato quella fa l'avvocato, lui torna nell'azienda del padre, io non ho nulla contro Renzi, sì, come ma Renzi come sa benissimo. Come ci ha insegnato il nostro amico democristiano, come si chiama? Sullo. Sì, ti ricordi, le parole, ti ricordi le parole valgono nei momenti in cui vengono dette. Sì, d'accordo. Ma ho capito, ma che vuol dire? Chi è che lo diceva? Cioè, come si chiama? Si presenta come il contrario della vecchia politica, si presentava, no? Ragazzi, le parole ha detto valgono nel momento in cui vengono pronunziate. Sì, che però lo Salvatore, sì, non mi ricordo, no, ma il problema era principale... Salvatore, ragazzi, Sullo, sì, ma da Rotondi. Però da ragazzi, il problema è quello là. Cioè, se uno dice una cosa del genere, poi te ne devi andare. Cioè, te ne devi andare dalla politica, sì. Non devi andare da Mattarella a fare trick e troc, trick e track, trick e trick. Io spero che sia coerente, Renzi, e dire io torno a Pontassieve, dove cavolo è? Cioè, torno lì perché ho detto questo, ho detto che se perdevo questo referendum me ne andavo dalla politica, punto e basta, chiuso il discorso. Non ci sono discussioni, non moriremo, l'Italia si salverà, andrà avanti lo stesso, siamo sopravvissuti a tutto, sopravviveremo anche a Renzi, dai. Vegan Days o Sagra del Cinghiale? Vegan Days o Sagra del Cinghiale? Sagra del Cinghiale. La Zanzara. Librandi. Lo avete visto a Rogoredo di notte. Li avete visti sulle rive del fiume. I rom. Li avete visti sulle rive di Lampedusa. I neri. Siete proprio delle capre ignoranti. Come come fate a non aver capito quel messaggio bellissimo di quella canzone dei Nani? I Nani rappresentano tutti gli esclusi, i derelitti. E cosa fanno se non possono lottare? Si mettono sulla riva del fiume e aspettano il passaggio del nemico morto. Ci passerete tutti davanti. Ho messo i Nani come suoneria. Oggi in ufficio mi sono dimenticato di abbassare il volume e a un certo punto è partito a manetta. I Nani, i Nani, i Nani, i Nani. Li avete visti? Li avete visti? Sulle rive del fiume. Siamo al top. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. È semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Allora ragazzi, se c'è un vincitore di questa tornata elettorale, di questo referendum, beh, caro Parenzo, questo vincitore, non c'è dubbio, si chiama Antonio Razzi. Ancora una volta, certo, salvato, il mio amico Razzi si è salvato. Il Senato è vivo e lotta insieme a noi, Antonio! Buonasera, buonasera. Come andiamo? Amici e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Come andiamo, amico mio? Ce l'hai fatta? Mangi il panettone, mangi il panettone. Ma mangiamo pure la colomba. Come dice l'amico Giuseppe, siamo al top. Siamo al top assoluto. Come hai festeggiato, Antonio? Come hai festeggiato? Dimmi. Guarda, io oggi ho festeggiato con le... con uno spumante pecorino d'Abruzzo. Sempre la marchettina pecorino d'Abruzzo. Allora, lo spumante. Allora, comunque, hai festeggiato. Diciamo la verità. È arrosticino. Hai festeggiato come un pazzo, diciamola tutta. Cioè... Ma guarda, io ho festeggiato alla salute di tutti gli italiani. Vabbè, adesso non esageriamo. L'italiano, la tua salute. La Costituzione. Vabbè, adesso tu l'hai salvato. Sì. Tu che conosci benissimo la Costituzione, peraltro. Era una fregatura per no, tutti, hai ragione, senatore. Quanti articoli ha la Costituzione italiana? Adesso, al di là di tutto. E allora hanno capito che siamo noi la situazione. Quanti articoli ha la Costituzione italiana? Aspetta, aspetta un attimo, scusami. Tu hai salvato la Costituzione? Tu hai contribuito Io ho messo il mio voto no. E dunque hai contribuito a salvare la Costituzione? Ma siete stati anche voi. Noi abbiamo votato. Tutti gli italiani che ci ascoltano hanno salvato, perché loro hanno detto a cani sulle feste, perché qui comandiamo noi, chi dobbiamo mandare al Senato, al Parlamento. Comunque, questa è una fregatura. Ancora una volta, sì, ancora una volta ce l'hai fatta. Ancora una volta, il Senato sopravvive. Il Senato sopravvive. Oh, ma che devi fare? Ma quanti sono gli articoli della Costituzione in tutto? Scusami. Ma Quanti sono gli articoli? Quante ne sono? Davide. La domanda a te era. Quanti sono? Io lo dico a te. Quante 100, ne sono? 120, 135, 138, 139. Pressa poco. 100, quanti sono? Più di 100. No, più di 100, d'accordo. Quindi il senatore Razzi ci abbiamo salvato. Di cui non sa neanche quanti sono gli articoli. E ne voleva cambiare 47. Ho capito, ma quanti però sono in tutto? Sono in tutto gli articoli della Costituzione? In tutto? Più di 100. L'hai voluta salvare? Dimmi una cifra. Quanti sono gli articoli? Ma vogliamo abbondare? Abbondiamo. Siamo 140. Ma no, sono 138. Forse. Dai. Vabbè, io voglio dire una cosa, Antò. Sei contento che ce l'hai fatta ancora una volta o no? No, io sono contento che gli italiani hanno dei. Vabbè, d'accordo, ma tu ce l'hai fatta. Bella Costituzione. Ma ce l'hai fatta. Come hai fatto? Sei fatto una bella trombata ieri sera appena hai visto i risultati? Guarda, o no? Giuseppe, io alle 10:15 stavo a letto. Perché ecco. io già sapevo, che, capito? No, io già sapevo che no vinceva tra il 57 e il 60%. Sì, questa vabbè, mattina, quando mi sono svegliato, 59%. Ma già lo sapevo. Perché era una cosa facile. Però scusami un attimo, anche tua moglie è contenta? Ma mia moglie, ma glielo ho chiesto. Ma come non gliel'hai chiesto? Scusa. Ma lei qui non lo sa nemmeno, dice, che succede adesso? Ma è tranquillo. Tranquillo, che succede? Che non sa nemmeno che succede. Tanto noi tanto il posto l'ho conservato, il Senato l'ho conservato. Ma guarda, non è conservato solo per me, tu lo sai che è conservato per tutti gli italiani. Quella è una storia di 2000 anni. Veramente 2000 anni, non è esattamente così. Il Senato però... dell'imperatore degli imperatori romani erano i saggi della politica. E questo esiste oltre 2000 infatti, anni. Lei sa perfettamente, lei sa, Razzi, e qui vuole cambiare tutto, Razzi, e può abolire tutto. Ma lo cazzo sta abolire? Ma lei sa perfettamente cosa vuol dire, infatti, la sigla SPQR. Hanno deciso alla grande. Complimenti. Sì. Vabbè. Ecco. Però lei sa perfettamente, no? No, anche per quelli che hanno votato. Vabbè, dai, Antonio. Non ce l'hanno fatto, che se ne va. Che vuol dire SPQR, scusami? L'acronimo SPQR, che vuol dire? Senatus. No, ma stiamo facendo, giochiamo l'indovinello o la cosa? No, ma che indovinello? Ma chi gioca Juventus? No, perché tu hai detto, hai parlato dei romani, allora, Hai sbagliato gli articoli della Costituzione che sono 139 e non sai, e hai detto più di 100 e non sai quanti sono. Guardi, primo, hai sbagliato gli articoli della Costituzione. Hai detto che il Senato c'è da sempre. Ti chiediamo, scusami Razzi, visto che vivi a Roma, che vuol dire quello che c'è scritto anche sui tombini? SPQR. Lo so. Tranquillo, vai tranquillo, lo so. Non lo sai che vuol dire? No, che vuol dire? No, lo so, perché sta scritto a tutti i lati a Roma. Ma che vuol dire? Sta scritto a tutti i lati, però SPQR, che vuol dire? Sono porci questi romani? Non topo di togne, non è topo di togne. No, ma SPQR, che vuol dire? Sono porci questi romani, come diceva Asterix? Non si dice così. I romani sono gran signori. Appunto, che vuol dire SPQR? Te lo dico da me. I signori romani. Allora ragazzi, però qui c'è una novità. Vabbè. Fermo Antonio, resta con noi. Senatus. La grande novità è che c'è una attrice aspirante pornostar, ecco, che noi abbiamo già c'è una pornostar in questa trasmissione? Abbiamo già intervistato di Roma, non lo so. Sì, lo so. Cosa ha detto? Sì, che sta cercando di informarsi sulla Senatus. Allora, c'è un'attrice, forza, dai, aspirante pornostar, che si chiama Paola Senatus Popolusque Romanus, vuol dire un'attrice che si chiama Paola Saulino. Caro Antonio, resta lì con noi. Questa che la conosce, magari. Che ha promesso un pompino a tutti quelli che hanno votato. No. Frega, inizia addirittura, caro Parenzo, una specie di pompa. Sì, l'ho letto. Te la presento. L'ha letto quello, te la presento, Antonio. Te la presento. Ragazzi, Paola, come stai? Ciao, Senatus Populusque Romane. Brava, Paola. Lo sa. Però Roma, in verità, allora, ma Paola, lo sai che è veramente una gran figa, Paola? Cioè, è veramente una. Ti ringrazio. Senatus Populusque Romanus. Non vuoi fare la pornostar? Populusque Romanus. Romanus? Sì, ho capito, ragazzi, abbiamo finito adesso questa cosa qua. Allora, vuoi fare la pornostar o no? Non ho capito. Non l'ho mai dichiarato. Non l'ho mai dichiarato. Penso che bisogna crederci per fare delle cose. Quindi per farle bene devi credere davvero tanto. Quindi è una cosa che, insomma, nella quale io non crederei abbastanza. Però la mia linea è molto borderline. Anzi, è molto più difficile mantenere una linea borderline. Tipo, scusa, leggermente hot, però cercando di non scavalcare mai quel confine, ecco, che poi appunto, ti porta in un lato. Diciamo che il pompatour appartiene hard. Ecco, però il pompatour è una cosa hard. Che cos'è questo pompatour, scusami? The Pompadour, Madame Pompadour. No, non è Madame Pompadour, è il Pompadour. Quello voleva dire Pompidou. Pompidou. Ecco, bravo, meno male. Meno male. Protesta di Luigi 14. Anzi, no, era. Vabbè, ma che vuoi fare? Comunque, veramente vuoi fare i pompini a chi ha votato no? Abbiamo le date, esiste ufficialmente. Sì, ma ho capito, ma è una buffonata, dai, non vuoi fare i pompini a chi ha, anche perché come fa a provare uno che ha votato no? Ci organizzeremo, io ho dichiarato che fondamentalmente mi farò una visione dei profili social delle persone che si sono prenotate, che si sono allora? Candidate, per vedere se in maniera pregressa, insomma, nei loro status, nelle loro condivisioni, avevano sostenuto in passato il no. Quante prenotazioni ci sono state fino adesso? A billion! Dai, dimmi la verità, quante persone ti hanno prenotato? Non ne posso contare, sono troppe, sono veramente troppe. Quando inizia sto Pompadour? Comincia il 7 gennaio in quel di Roma. Ma ragazzi, ma non può essere, dai. Ma non può essere vero, cioè, ma dai, su. Scusa, adesso abbiamo qua uno, il senatore Razzi, Razzi che ha votato sì. Senatore, la Costituzione è salva. Brava, hai visto com'è brava lei che ha subito detto che la Costituzione è salva. Ecco, non bravi. È salva quando qualcuno diceva meglio il sì che niente. Ricordiamo che la Costituzione esisteva. Bene, esiste, allora vedete due grandi statisti collegati, due grandi difensori della Costituzione. No, io non sono una statista. No, sei un grande difensore del no, che ha vinto il senatore Razzi e Paolo Saudino. Allora, faresti un pompino al senatore Razzi che ha votato no? Eccolo là, subito. Ma il senatore non si è prenotato, siccome le prenotazioni sono finite domenica. No, ma si prenota. No, è domenica, sono finita. Ma sono chiuse ormai, purtroppo. Io sono uno serio. La ringrazio, sei una bellissima, però. Grazie, senatore, onoratissima. Ma gente c'è in giro, incredibile. Ma io non ho capito una cosa. Le prenotazioni sono già finite. Le prenotazioni io ho scritto su Facebook che sarebbero finite domenica, però stanno arrivando ancora. In caso di ripensamento, senatore, sì. Puoi farti sì. avanti o no? No, io apprezzo lei, la sua gentilezza, la sua bellezza, ma io sono di Rovigo, grazie, non senatore, onoratissima, quel che conta è che la Costituzione è salva! Pensate. Io sono una pompatura, uno serio. Che coppia di intellettuale. Mi dispiace, caro Davide, tu lo sai come la penso io. Sì, figuriamoci. Anche Giuseppe lo sa che io sono una persona seria. Dai. E sono un parlamentare serio. Ma che c'è? Non è che poi i senatori seri non si fanno fare le pompe. Però il testo comunque è un linguaggio universale, quindi... Il testo Paola, è comunque un linguaggio universale. Tutti gli italiani a votare no. Complimenti, gli faccio tanti auguri. Io andure. Ho fatto la mia campagna elettorale e abbiamo vinto, senatore! Pensate, contenta la signora, mi pare. La signora. Fermi tutti, fermi là, che duetto, ragazzi. Sniffata la mutanda, sniffata il calzino, and ready to go. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... A Natale fai battere il cuore. Regala Stroili. 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La Zanzara. Tu perderai la stolta battaglia contro Bitonci per avere il potere a Padova. O David Parenzo. Allora ragazzi, abbiamo qui due grandi esponenti del no, caro Parenzo, proprio alle 20:38, due importantissimi esponenti del no. Uno un politico, il senatore Antonio Razzi, addirittura ha fatto politico, una canzone. Politico. Politico, sì, ufficialmente un politico. Politico. Si è battuto fino allo stremo. La pira era un politico. La pira era un politico. Dai, su. Il senatore Antonio Razzi, il quale mantiene anche Berlinguer il suo... Berlinguer era un politico. Scusa, la pira. Aspetta, il vitalizio lo mantieni? No, ma tanto tu, a te che te frega. Finita, tutto. Io non c'ho problemi, lo sai. Ma le darai un po' al partito, almeno di quei soldi che prende? Ma io lo do sempre al partito. Io sono uno che sono onesto. Io ogni mese... Ma la pensione, quanto prendi dalla Svizzera di pensione? Sui 1000 più euro. No, ma che 1000? Troppo pochi. Ma che dici 1000 più euro? La pensione della Svizzera. La pensione della Svizzera sarà 2000-2500 euro. Diciamo la verità. Che bella pensione, però. Sono 2000, però io devo fare i complimenti alla Paola. Aspetta. Sei una vincente. Aspetta. Sei una vincente. Fermo lì. Una perdente. 1-0 per la Paola. Perché Madonna aveva promesso, se vinceva la Hillary Clinton, sì. Puntini, puntini, puntini. invece no, un pompino aperto. E poi ha perso. E Paola invece lo deve fare. Però Paola, quanti invece ne farai? Paola scende in campo. Allora Paola Saulina è un'attrice. Non ho ancora i dati, la fase ma è ancora organizzativa. Sì, però diciamola seriamente, alla fine li farai sti pompini o no? Certo. Course, ma non è possibile, ma dai, che porcheria, dai, ma che immondizia, ma che roba, ma ragazzi, ma l'ha detto lei, ma che è vuole un'immondizia fare? Dai, ma non si può, è un'immondizia. Fatemelo dire, è una però cosa fatta in riservatezza, Davide, in serenità, ma ho capito, tutto tranquillo, ma non è serenità, tranquillità, ma che roba, è un'immondizia, amica mia, dai, ma come si fa ad andare alla radio queste porcherie? No, vuole un cavolo intanto. Mondo, l'amore ho capito, ma tutti lo faccia a casa sua, perché deve ma lei fa l'attrice, annunziare. Ma che tutte le attrici devono fare sta roba, non mi hai capito? Sono troppo dentro, quindi non posso Scusa. Lasciare il gioco così. Esatto, capito? Brava, però alla fine li farai sul serio, guarda che se non li fai mi incazzo, perché uno non è che può annunciare, farsi pubblicità con i pompini e poi non farli. No, poi non è chiaro, ma come sai, nella vita ci vuole strategia. Tu lo sai che Paola, un po' di organizzazione è un Paola, po' di lo strategia. Sai che il senatore Razzi ha avuto una marea di donne? Ma che bravo, ma ha avuto è bellissima questa cosa. Migliaia di donne, tu lo conosci il senatore Razzi? Io lo conosco secondo Crozza, insomma, più o meno è uguale, più o meno è uguale. Fisicamente è uguale. Pare che abbia perché anche poi Crozza, io lo adoro, è uno dei miei preferiti proprio, ecco. mi fa tanto ridere. Si è prenotato pure lui? No, non si è prenotato pure lui. No. Però è bella la promiscuità, insomma, di avere tante donne, di scambiare l'amore, insomma, di vivere. Antonio è stato veramente una sessuale, è quello che ci come è il più democratico. Antonio è stato un playboy in Svizzera prima di sposarsi. Prima di sposarsi, meno male l'hai detto. In Svizzera aveva il petto completamente glabro, mi dicono, è vero? Sì. Ce l'hai ancora glabro il petto? Non ci sta niente, perché se l'hanno pigliato tutti di souvenir. Cioè, non che ti strappavano i peli? Gli hanno strappato i peli, forse. Così dice. Purtroppo, che vuoi fare? Ma i peli ricrescono, come fanno a non crescere? Scusami. Vabbè, qualcosa è ricresciuto, però a volte non sono venuti su più. Forse la troppa veemenza durante la massi. Ci manca la medicina. Scusa, ma tu sei glabro ovunque? No. Sei depilato, no? No. Non sei depilato, no? Giuseppe, io sono originale. Original. Come mi ha fatto mamma. Capito? Ma che bella compagnia di gente, comunque. Che autorevolezza. Che autorevolezza. Un senatore che parla dei suoi peli pubblici. A quanti pompini arriverai, Paolo? Ecco in tutto, qua l'altro in che fa le domande. Dai, su, ma datti un limite, che ne so, ne farò 20, 30, 40, 50. Ma cioè, io comunque, bene o male, non lo so precisamente come mi organizzerò, perché... Come mi organizzerò? Ma di cosa parla? Mi organizzerò di cosa? Piano, mica è un consiglio però d'amministrazione, cosa vuol dire mi organizzerò? Ma siete degli sporcaccioni tutti quanti. Allora, però continuare fino al 2018. Il tour, il pompa tour fino al 2018. Tour? Ma di cosa parlate? Il pompa tour può continuare fino al 2018. Ma insomma, non è, ragazzi, che ce la questa, faccio. Guarda che Paola è veramente, veramente molto bella. Assomiglia un po' alla Boschi, la signora Boschi. Sì, così un po' dicono. Sì, un po' sì. Vabbè. Cara Paola, ti ringrazio. Sì, sì. Ciao, ti saluto. Ciao. Antonio. Ma è vero che Davide si cade il sindaco a Padova? Può essere, sì. Può essere. Di Padova. Può essere. Stiamo costruendo la squadra. Stiamo costruendo. Ciao. Votare. Quante volte ti cambi i calzini? Tutti i giorni. E le mutande? Anche adesso purtroppo le devo cambiare tutti i giorni perché lavoro. Purtroppo? Scusa, perché prima perché lavoro molto, allora quando lavoro molto devo cambiare tutto. Ciao. Francesco, ciao. Firenze, vai Francesco. Dimmi. Pronto? Dimmi. Allora io fisco nel lavandino. Allora? I nani. No, niente, praticamente allora c'era le votazioni. C'era le votazioni in Italia. Io tutte le volte c'è le votazioni, io ho 25 anni, o a Monte Carlo. Allora? Vado a Monte Carlo e gioco al casinò a 25 anni perché non ci credo. Comunque volevo dire le puttane, volevo ragionare un po' di puttane. Ma che vuoi? Che vai a fare a Monte Carlo, scusa? A giocare? Sì, gioco e ovviamente mi scarico, diciamo. Che fai? Ti scarichi? Mica bisogna a Mignotta a Monte Carlo, vai? Sì, sì. Ma sì, sei ricchissimo allora, perché non è che ci No, non c'ho una lira. Ho comprato una macchina ora e non c'ho più una lira. Lavoro, scusa, spendi tutti i soldi tra che cosa? Gioco e Mignotte? No, non spendo, so io quando voglio giocare guadagno. Ah, guadagni dal gioco? Sì. Mi so fermare, non sono malato. E come li spendi poi quei soldi? Sono malato di fiat. figa. Con le puttane. Sei malato di figa. Parezzo, vabbè, è malato di figa. Ma che devo fare? No, cosa no, vuoi commentare? È incommentabile, capito? Sono abbastanza disarmato, amico mio, non so che cosa dire. Pensavo che coi nani e quello che si fa tirare i polli in faccia e si spaccare i denti avessimo toccato il fondo. Pensavo che il fondo ancora fosse più profondo. Invece con la c'era presenza anche del divino Thelma. Poi vengo a scoprire che c'è quest'altra signorina qui che offre queste cose, che dice mi devo organizzare. E poi scopro che c'è, che devo fare, amico mio? Ogni giorno si apre un'altra porta e lo sprofondo diventa sempre l'abisso, diventa sempre più basso. Che cosa devo fare? Vabbè, dimmelo c'è anche tu. Il signor Santoro oggi, c'è anche il sì, Santoro. No, d'accordo, va bene, però insomma, Francesco, allora, perché, cosa devo fare? Perché cosa ci hai chiamato fare? Per dirti che sei malato perché? Di figa? Per dirti. Sì, sì, perché sentiva questo bisogno. Sentiva questo bisogno. Ma chiama da Alino Milan ogni tanto. Anche chiama da Alino Milan alle 6:50 del mattino e gli dici: guarda, io scusa, sono però, Francesco, vogliamo chiamare una cinese a quest'ora? Assolutamente. No, ma io ci vado sempre. Vado sempre. Dalle cinesi? Sì, però siccome le cinesi ora sono un passo avanti alle italiane, cosa fanno? Fanno sempre i massaggi, no? Loro proprio ti fanno la fattura. Io voglio la fattura. Voglio la fattura. Che vuol dire vuoi la fattura? Scusa. Allora, quando sono problemi per allora, il discorso è questo. Quando vado dalle cinesi, pecco in bonezza, diciamo, totale. Cioè? E in servizio. Perché il servizio delle cinesi è un servizio, diciamo, più... Non... Parlano tutte male italiano. Cioè? Però io voglio farmi fare massaggi. Vado proprio nei centri massaggi autorizzati dallo Stato europea, capito? Ma della mezzogiorno ce n'è tanti. Ah, nella tua... Beh, sì, certo, immagino. Ma quanto spendi mignotte tu al mese? Ecco, al mese spendo 300-400. Beh, poco alla fine, 300-400 euro. Sì. 300-400... Certo, assolutamente, pochissimo. Io sono stato fidanzato e ho speso molto di più e ho goduto a 100 volte meno. Ma non conviene, non conviene. Ora, se uno vuole figliare, vuole fare un po' di prole, no? Allora è un altro discorso. Però comunque si andrà sempre a mignotte, sempre. Non c'è bessi, ragazzi. C'è ma bessi. Per adesso le vuole levare. Cioè, ma lo sa se in Italia... Ne voglio multare. Multare, diverso. Multare. È uguale la solita ossa di levarle o multarle. Certo, c'è davvero. I trans ti piacciono? Ultimamente mi sa che da uno ci vado, ma se ti stai a colpa vostra, ma come colpa nostra? Adesso pure colpa nostra, questo non credo. No, dai, amico, sì. Se lei è un miserabile, non attribuisca la colpa agli altri. Hanno sempre, diciamo, fatto un po' senso, no? I trans. Invece? Però siccome mi state facendo garbare, poi chiamate della gente che ha una voce da donna assurda, bravissime, e io probabilmente tempo fa andrò anche, voglio provare. Però se provo, io non mi vergogno a dirlo, perché non bisogna... Ma non torni indietro, secondo me non si torna indietro. Io se vado da un trans voglio, non dico fare l'attivo, però un po' di fruamento, diciamo, dalla parte... Vabbè, sua, non occorre entrare nel dettaglio. Il po' di fruamento bisogna farlo. Cioè vuoi provare, insomma. Non di dietro. Voglio provare un po' a vedere un po' come funziona. Ci voleva l'aggiornamento. Cioè, vuoi fare un po' il passivo da quel punto di vista? Un pochino sì, però non da magari sul subito. Dopo un po'. Meno male, guardi, che ha fatto questa comunicazione quando l'indice Nikkei ancora non è aperto. Anche pure. Assolutamente. Titoli da deficienti. Gioca pure in borsa. Ma tu quello che guadagna spende tutto a mignotta, però 300-400 mi sembra poco. Comunque, vabbè, Emiliano da Roma. Ciao, Francesco. Emiliano da Roma, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Non si sente una mazza, vai. Pronto, si sente? Sì, ma si sente anche alla radio, per cui tra poco ti mando a fare in culo. Dimmi. Ecco, grazie, Luciani. Dimmi. No, volevo sapere solamente se... Senatore Razzi non si vergogna a stare al Senato italiano. Perché? Non conoscendo neanche gli articoli della Costituzione italiana. Che quanti sono almeno? E poi erano 139, certo. Ridendo in faccia alle persone che come me prendono 6 euro e lordi a ora, 3,80 euro netti a ora. Ci fanno un culo così tutto il giorno. Io devo sentire un senatore della Repubblica Italiana che non conosce neanche gli articoli della Costituzione italiana. Ma e c'ha poi ragione, lo so. Secondo voi, no, solo questo, io solamente questa domanda. Secondo voi è una cosa normale che l'Italia continui ad andare in questo modo o no? Secondo voi, c'ha ragione, c'ha ragione. C'ha ragione. Vabbè, ma che problema c'è? C'ha ragione lui, c'ha ragione. Va tutto bene così. C'ha ragione lui, perché questo ascoltatore ogni mattina va a lavorare per far bene il suo lavoro, ci si impegna. Sì, per far bene il mio Razzi, lavoro, prendendo 3,80€. Quello, sì, ma al di là, sì, certo, quindi vabbè, perdendo anche una paga assolutamente irrisoria. E allora quindi esige da bravo cittadino, esige che almeno, non è che dice Razzi prende troppi soldi, ma si incazza e ha ragione, perché dice quello non fa bene il suo lavoro. Non fa bene il suo lavoro perché non sa neanche quanti sono gli articoli della Costituzione. Esatto, bravo, bravo. Di quello che almeno di quello che sta parlando. Esatto. Questo è un compagno lavoratore serio. Questo è un lavoratore serio. 1 milione di euro al mese. Bravo. Se Parenzo gli fa una domanda, bravo, gli dice quanti articoli sono alla Costituzione lavoratore italiana, serio, e lui questo non sa neanche rispondere. Un senatore della Repubblica, vabbè, un senatore. Bravo, bravo, bravo. Vabbè, mamma mia, come vi scaldate per queste bravo cose. No, chi se ne lui frega. Lui si impegna per lavorare. Lui deve impegnarsi, deve vabbè, studiare. 140, deve stare 139, 138. Quell'altro non sa manco dai quando sono gli articoli della Costituzione. Ma dai, dai, ragazzi, ma su. Dai. Pompatur, Pompatur, Pompatur, ciao. Cruciani e Parenzo, andatevene a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.